Ehi, microfoni, prova microfoni. Quanti siamo? Quanti siamo? La pizza sta non la nostra. Questo particolare tubi. Lo sai com'è? Prestazioni sopra il beat. Yo. Fateci passare scemi di merda. Come si chiamano quelli che devono arrivare? Non mi ricordo. Apri le tue orecchie perché torna a prestazioni. Tu non te l'aspettavi con ste nuove aggregazioni. Per voi questi malessere le peggio disfunzioni. Per noi le vostre donne nelle meglio posizioni. Ma se c'è se porzioni. Tu sei un omino piccolo, talmente piccolo. Con una bocca grande grande tu non hai le proporzioni. Troppe illusioni, vuoi fare inchiesta invece te la giri coi coglioni. Nel rap io faccio schemi, ci parlo dei problemi. E se mi state dietro io vi tiro pure scemi. Nel senso che vi tiro scemi. Io guido tutto fatto e sono pure senza freni. Conosci me, conosci Fabio, Rascio pure Bartolo. Lo sai che c'ho più alias, cose almeno non mi incastrano. Critico il flow di questi babbi che dopo si esaltano. Fin quando non porto le rime dopo te li scardino. Ehi, dimmi che va ancora tutto bene. Oppure piangerai tu pensandomi stasere. Amico ascolta bene perché lo dico una volta. Sei un sacco di fratelli perché la mamma è mignota. Ehi, fra, prestazioni. Genio sai la politica italiana. E non mi garba di parlarne di sprecare aria. A questi miei fratelli da solo il mio consiglio. Non mi piaceva Prodi, non mi piace neanche Silvio. Sale il mio bisbiglio, tutt'altro che sbadiglio. La folla in questa sala cazzo è andata in disibiglio. Ti porto lo scompiglio, è la cosa che sconsiglio. Non fare il testa a testa quando faccio l'uferrigno. Ehi, fra, prestazioni. Prestazioni. Sono quelli che devastano i livelli. Se sei un mio fan. Amici un cazzo. Tanto io non ho successioni.